e sono ancora qua, col mito come compagna, a testa in giù, a testa in su, ma è una sfida. Questa vita, sì, io l'ho capita. Mi hanno insegnato a credere che ciò che voglio è possibile, con metodo e dedizione. Il sudore fa apprezzare il vero amore. Oggi la televisione ha detto cittadini attenzione, il mondo scade domani, non ci sono condoni, auguriamo buona estinzione. Delle mie opere grandiose non resterà proprio niente, avrei dovuto ammirare più volte il cielo, correre un po' meno. Sono ancora qua, su questa palla che rotola, a testa in giù, a testa in su, ma è una giostra. Questa vita, sì, io l'ho capita. Immobile come le stelle, qualcuno certo ora si offende, chi lavora tutto il giorno è un deficiente. Non impara niente, perde ciò che è importante. Oggi la televisione ha detto cittadini attenzione, il mondo scade domani, non ci sono ripari, auguriamo buona estinzione. Del mio passaggio gentile non resterà proprio niente, avrei dovuto tentare di lasciare qualche traccia di me.